Reportage in collaborazione con Euronet. I musei d'Europa al tempo dei tagli. Il Louvre, un esempio per tutti, di Adriana Fracchia. In tempo di crisi la cultura soffre in tutti i suoi ambiti a livello globale, anche in Europa. E l'Unione Europea, che pure come prevede il trattato può contribuire solo laddove non arrivano gli Stati membri, dovrà mettere mano a dei tagli nel suo sostegno alle diverse attività culturali, compresi i musei. Tagli che renderanno ancora più sottile un budget già ridotto. Tutto questo in un contesto che vede dei record positivi e dei record negativi. E partiamo proprio da qui. Come ha ricordato il giornalista Gian Antonio Stella in un suo articolo pubblicato l'11 aprile scorso sul Corriere della Sera, il Louvre di Parigi, per la prima volta nella sua storia, nel 2012 ha registrato un record di visitatori, raggiungendo la quota di quasi 9 milioni di ingressi. Nell'arco di poco più di un decennio, il numero dei visitatori del celebre museo francese è quasi raddoppiato, erano poco più di 5 milioni nel 2001. A crescere è stato il numero di visitatori provenienti da Cina, Italia, Brasile e Stati Uniti. Stella nel suo articolo mette a confronto la realtà dei musei statali italiani, quali tutti assieme incassano meno del Louvre di Parigi. Si parla di un 25% in meno. Complessivamente, secondo i dati forniti dal Ministero dei Beni Culturali e relativi ancora al 2011, a fronte di circa 40 milioni di visitatori, i quasi 430 istituti statali, tra musei, monumenti e aree archeologiche, hanno realizzato una cifra attorno ai 110 milioni di euro lordi. L'articolo sottolinea anche come in più della metà dei musei statali italiani l'ingresso sia gratuito. Le parole di Stella ovviamente hanno scatenato un acceso dibattito. Mario Resca è stato per 3 anni il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. Purtroppo i nostri musei, al di là della qualità assoluta del patrimonio che noi conserviamo, la capacità di attrarre visitatori è molto scarsa, l'abbiamo visto nei 3 anni della mia direzione generale. Attrarre turisti è una delle grandi opportunità che l'Italia ha, ma non è mai riuscita a cogliere. Eravamo numero uno nel turismo 20 anni fa, noi siamo al 5º posto e stiamo scendendo al 7º posto. Non ho visto ancora una politica dei nostri governi negli ultimi 30 anni che sia indirizzata a quello che è un'enorme fonte di ricchezza del nostro paese, che è proprio il turismo. Sul turismo non esiste una politica di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e questo è un grande... la Germania porta 150 milioni di turisti nei suoi musei e voglio dire la Germania ha un patrimonio culturale che è una frazione di quello che abbiamo noi da far vedere. I musei parigini attraggono quasi 20 milioni di persone, quindi è un grande indotto economico oltre che capacità di organizzazione, di gestione. Lei può andare al Louvre, sta dentro 3 giorni, trova scelta di ristoranti, shopping, convegni, capacità di attrarre le persone. Quindi diciamo in questi 3 anni in cui lei ha cercato di fare una politica di rilancio, gli esiti sono stati comunque scarsi. Certo, se noi compariamo agli altri paesi, certamente noi abbiamo un gap enorme. Il governo deve sapere che c'è adesso un piano per la promozione della cultura che, ripeto, porta un grandissimo indotto che è il turismo. Gli altri paesi si danno tutti da fare per attrarre i turisti e sono aggressivissimi. Dalla Croazia, ovviamente, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, la Germania sono attrezzatissimi. Al posto di Mario Resca, da qualche mese, c'è Anna Maria Buzzi. Indubbiamente Stella centra alcune delle criticità sulle quali mi sto concentrando. È vero, la metà dei nostri musei sono gratuiti. Credo che nel nostro paese ormai questo non sia più possibile. Che cos'è che fa del Louvre un'eccellenza rispetto a noi? Proprio del Louvre, io mi divertivo ad analizzare i dati, proprio partendo dall'analisi di Stella. È vero, il Louvre è il primo tra i musei più visitati al mondo, e non c'è nessun museo italiano tra i primi 10. Ma i dati non vanno letti soltanto in questo modo. Io mi sono divertita a fare delle analisi sui dati dei visitatori del Louvre rapportati ai visitatori degli Uffizi. Il Louvre fa 8 milioni e 800 mila visitatori, gli Uffizi fanno 1 milione e 766 mila visitatori. Quindi sembrerebbe un numero assai modesto, ma se noi analizziamo questo dato non in maniera così asettica, ma rapportandola ai numeri degli abitanti della città dove si trovano questi musei e al numero dei turisti annui che si recano a Parigi e a Firenze, noi abbiamo un rapporto di gran lunga superiore come performance a favore degli Uffizi. In buona sostanza, gli Uffizi hanno una performance del 20% superiore al Louvre, perché in questo modo si leggono i dati. È chiaro che poi, mentre il Louvre intorno ha ben poco rispetto all'Italia, l'Italia invece, se va agli Uffizi, ma tutto intorno ci sono le gallerie dell'Accademia, ci sono una miriade di altri luoghi culturali. Quindi io sto sostenendo che l'Italia ha delle performance eccezionali in termini di afflusso di visitatori nei musei. Sicuramente dovremmo migliorare, ma dovremmo migliorare non agli Uffizi, non al Colosseo, non a Pompei, che più di tanto non ce la fanno ad assorbire i re. Dovremmo migliorare nei siti minori, in quei 200 musei dove non si paga. Problemi di capienze e quantità elevata di musei sono due punti su cui concorda anche Giovanna Damiani, sovrintendente al Polo Museale Veneziano. La questione che va assolutamente chiarita è la capienza dei nostri musei, quindi l'abusato paragone tra il Louvre e gli Uffizi non regge, perché il Louvre ha un'estensione in metri quadri tale che può accogliere un numero ben superiore rispetto a quelli che contemporaneamente possono essere agli Uffizi. Certo, i nostri musei sono tanti rispetto alla quantità di quelli presenti, per esempio in Francia, parlo dei musei statali naturalmente, sono tanti, tantissimi, particolarmente dispersi sul territorio. Certo, torniamo anche sempre al solito appello, un'attenzione maggiore da parte della politica nei confronti del patrimonio artistico nazionale, ma la quantità naturalmente fa sì che non sempre si possa per tutti garantire adeguati standard. Ma c'è una politica europea con delle linee guida per quanto riguarda i musei? Ancora l'attuale direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Anna Maria Buzzi. Non esiste una politica europea con delle linee guida. Ho avviato in quest'ultimo mese, appunto proprio per vedere cosa le best practices che esistono a livello europeo, una serie di incontri con i principali paesi europei, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania e i direttori dei principali musei europei. E purtroppo la situazione che avvertiamo noi in Italia l'avvertono anche loro. Però ecco, quello che è un problema generale nelle contrazioni delle risorse l'ho avvertito in tutti i paesi. Per ora stiamo lavorando ventre a terra per portare l'Italia ai livelli degli altri paesi europei. Il modello Italia non è paragonabile a nessun altro modello che io finora ho visto. La voce dei professionisti museali è quella del presidente di Comitalia, il Comitato Nazionale dell'International Council of Museums, Alberto Garlandini, che invoca per i musei meno localismi e più lavoro in rete. Ogni critica è ben accetta e bisogna sicuramente fare di più. Certo che qua bisogna fare le nozze con i fichi secchi, bisogna effettivamente fare miracoli, perché quando gli stanziamenti sono ridottissimi, il personale non viene sostituito, tutto diventa difficile. In particolare si può fare molto di più per la gestione a rete. Questo favorirebbe moltissimo proprio le caratteristiche del nostro sistema museale. Non possiamo competere con milioni di visitatori del Louvre, ma in qualsiasi piccolo paesino in cui in Italia chiunque venga trova qualche cosa di importantissimo ed interessantissimo da vedere. È una caratteristica che ha degli aspetti positivi, naturalmente la diffusione degli aspetti negativi, perché bisogna fare delle azioni di sistema e di rete. Anche queste richiedono qualche investimento, anche se lavorare in rete è una rivoluzione culturale, vuol dire affrontare in maniera diversa l'offerta culturale del nostro paese. Ci vuole un'attenzione, investimenti, scelte per priorità. Chi è che sta meglio? Chi sta meno peggio, diciamo. È un po' il Nord Europa, sta un po' meno peggio di noi. Hanno avuto riduzioni che non sono così drammatiche come le nostre, per la cultura in generale e l'educazione. Ma cosa fa l'Europa in tema di politica culturale e anche per i musei? Ce lo spiega Alessandro Senesi, capo unità aggiunto dell'unità cultura della Commissione europea. Innanzitutto l'Unione europea può fare, secondo il trattato, quello che gli Stati membri non fanno, quindi comunque deve essere un'azione a valore aggiunto, quindi coprire un'area che non può, comunque non è coperta dagli Stati membri. E noi la facciamo in due modi, quindi facciamo sia politica culturale, per quanto consentito dal trattato, sia sostegno finanziario a attività culturali in genere, tra cui ovviamente i musei. Quindi facciamo, secondo me, abbastanza. C'è anche da considerare che il budget per la cultura a livello europeo non è altissimo, ci sono state ovviamente altre aree dove il budget è stato più elevato. Per quello che abbiamo avuto come disponibilità, secondo me abbiamo fatto abbastanza. Ecco, ma l'Italia si muove bene? Come tanti altri paesi, membri, piccoli e grandi, è presente. L'Italia, nell'ambito del programma cultura, è il paese da cui proviene il numero più alto di candidature, quindi di progetti per i quali si chiede un finanziamento. C'è una grande domanda e noi ovviamente non possiamo soddisfarla tutta perché il budget di cui disponiamo è abbastanza limitato. Si parla di cifre intorno? Il budget, diciamo, per il 2007-2013, quindi il programma attuale che si chiama Cultura, è per tutta l'Europa, per tutti i 7 anni, 400 milioni di euro. Per il prossimo periodo, quindi 2014-2020, stiamo ancora discutendo, il budget generale dell'Unione per la prima volta nella sua storia diminuisce rispetto ai 7 anni precedenti, quindi ci sono stati tagli anche abbastanza importanti sia negli Stati membri sia anche per la prima volta appunto a livello europeo. Molto probabilmente riusciremo a cavarcela con un budget uguale o leggermente superiore a quello attuale. Ma la domanda vera è: perché la cultura serve alla società prima ancora che all'economia? La risposta ce l'ha data Pierluigi Sacco, professore ordinario di economia della cultura allo IULM di Milano. Il vero problema, ed è veramente un po' curioso che si debba dirlo in un posto come l'Italia, che ha invece una tradizione culturale lunghissima, positiva in questo senso, ma negli ultimi anni diciamo un po' in disarmo, è che se non si parte appunto da una precisa percezione del perché la cultura serve a una società, prima ancora che a un'economia, poi è difficile farci economie. Cioè noi con questa concezione che insomma, possiamo appunto evocativamente definire petrolifera, stiamo dando il messaggio che la cultura conta se e solo in quanto produce un impatto economico immediato. Questo ci porta subito a concentrarci sui grandi eventi, ci porta a concentrarci sul rapporto della valorizzazione turistica e dimentica il fatto fondamentale che in società come le nostre, se le persone non hanno alti livelli di partecipazione culturale, non sviluppano quelle capacità che sono fondamentali per rendere una società innovativa, e noi infatti abbiamo dei tassi di innovazione modesti su scala europea, non permettono di raggiungere elevati livelli di qualità della vita, e noi per esempio tra i paesi più avanzati non siamo certo ai primi posti, crea problemi legati alla coesione sociale, non a caso la nostra è una società che fa grandi difficoltà nello sviluppare dei modelli avanzati di multiculturalità. Sono quindi tutti aspetti che hanno delle ricadute economiche importantissime, ma che appunto in una concezione troppo limitata non si vedono, quindi diventa assolutamente fondamentale capire che la nostra priorità di politica culturale in questo momento è proprio quella in primo luogo di riappacificare, se vogliamo, la società italiana con la cultura. Reportage in collaborazione con Euronet.